casa de Dios, que caminamos super velozmente. La vita correva piano, la casa del vecchio sembrava pieno d'un milione di pesci d'argento. E guardavamo la mia ragazza e io questo fantastico tramonto. Poi delle vacanze, se non hai soldi, ne metterò più io. Così diceva ed era vera. E guardavamo così rapidi noi questo fantastico tramonto. Noi continuiamo ancora un po' a far programmi come tutti in fondo. Noi quella sera avemmo il privilegio di assistere ignari al nostro vero e definitivo tramonto. E siamo qui per uno speciale di Indiradio a Cosenza, sit-in in solidarietà dei fatti della Grecia. Recita lo striscione presente Grecia Italia, noi il debito non lo paghiamo. Quindi a Cosenza il movimento cosentino si è dato appuntamento venerdì 17 febbraio in piazza 11 settembre. E ora ascoltiamo i vari interventi dalla piazza. Vi ricordo sempre che siete su Radio Transizione di Fase per lo speciale di Indiradio. Vado. cittadine e cittadini cosentini, siamo qui questa sera per dire basta, noi il debito non lo paghiamo. Tutti quanti noi abbiamo visto dalla televisione, dai mezzi di informazione, da internet, tutti quanti noi abbiamo visto che cosa è accaduto negli ultimi giorni in Grecia. E tutti quanti noi ci siamo chiesti, è questo il futuro che toccherà a noi? È questo il futuro che aspetta anche l'Italia? Ci sono problemi tecnici. E questo dunque è il futuro che attende anche l'Italia. Italia-Grecia, noi il debito non lo paghiamo. Siamo continuamente soggetti a tagli, siamo continuamente soggetti a disservizi, a eliminazione della democrazia. In Italia ormai vige uno Stato di banche e non più democratico. Il nostro primo ministro Monti continua a dire che lavorare in un posto fisso è noioso. Ebbene, probabilmente lui stesso avrà pensato questo quando sarà stato uno dei responsabili dell'entrata della Grecia in Europa. Ebbene sì, questo non lo dice nessuno, ma in realtà vogliamo ricordarlo al popolo cittadino di Cosenza. Monti è stato uno dei responsabili dell'entrata della Grecia in Europa e questi sono i risultati. E continuiamo dunque a essere governati da chi non riesce a fare il proprio lavoro e da chi ci consiglia di andare in giro a trovare un lavoro precario di un mese o di un giorno. Ebbene, dobbiamo dire basta a questa precarietà che continua ad assillarci. E è per questo motivo che siamo qui per dire basta, siamo qui per dire noi il debito non lo paghiamo, siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo greco, il popolo fratello, perché ricordiamo che noi come Magna Grecia, la Calabria in particolare, è da sempre culturalmente vicina alla Grecia. Quindi abbiamo visto che cosa accadeva. Accadeva che non i Black Bloc, non qualche cattivo vestito in nero andava in giro a rompere qualche vetrina. Ebbene, non è successo. Questo, come gran parte della stampa poi italiana continua a dire. In realtà è successo che molti cittadini, molte famiglie, molti anziani, addirittura molti partigiani di 80-90 anni sono scesi in piazza in Grecia, non solo ad Atene ma in numerose città, per esprimere il loro dissenso. Ebbene, sapete che in Grecia numerose persone muoiono letteralmente di fame, ci sono veramente tanti bambini che non hanno più la possibilità di avere due pasti al giorno. Questa è la Grecia di questa Europa. E noi siamo qui per dire basta, non intendiamo più pagare questi debiti, non intendiamo più vivere in maniera passiva. Il popolo greco in blocco è sceso in piazza e non erano, ripetiamo, qualche squilibrato, qualche anarchico pericolosissimo. No, era un popolo, era un intero popolo che non ce la fa più e che dice basta a questo stato delle banche, perché questa crisi non l'ha provocata chi lavora ogni giorno. Questa crisi l'hanno provocata le banche in primo luogo, le banche che oggi sono le padrone del mondo, le grandi multinazionali che stanno comprando pezzi della Grecia così come anche dell'Italia. Pensiamo per esempio in Italia a quello che continua a succedere per la questione dell'acqua, che ancora una volta la si vuole privatizzare, malgrado il popolo italiano si sia espresso con un referendum sostenendo la necessità di avere acqua pubblica. Ebbene, l'Italia viene privatizzata e la Grecia è privatizzata. Pensate che i maggiori porti della Grecia sono stati comprati addirittura da una multinazionale cinese. E questo è il futuro che ci aspetta: essere governati non più da un primo ministro che, diciamo, abbiamo scelto noi col nostro voto, magari. No! Sono le multinazionali che comprano il nostro territorio, magari tra qualche anno i nostri monti della Tira verranno comprati non sappiamo da chi, magari dai cinesi, non abbiamo nulla contro i cinesi, ma contro le multinazionali cinesi sì. Quindi è questo il futuro che ci attende. Vi ricordo che siamo qui a Cosenza per esprimere la nostra solidarietà al popolo greco e vi ricordo che questo microfono è aperto, quindi chiunque vuole può prenderlo in mano e raccontare la propria storia, magari anche di precariato. Solidari col popolo greco. Gli ultimi fatti della Grecia ci fanno riflettere su quello che sarà il nostro futuro. Siamo infatti certi che il clima politico ed economico, soprattutto dell'Europa mediterranea, è quello che vede come capofila proprio la Grecia. È il destino che seguiremo anche noi in Italia. Non possiamo tacere sulla macerie sociale che viviamo e che vivono i paesi a noi vicini. La Grecia, simbolo di una Europa che cola a picco sotto i colpi del più selvaggio capitalismo finanziario, si è posta in lotta contro chi in nome delle banche e della Troica, non certo del popolo, sta distruggendo e annientando le vite di milioni di uomini e donne. Lo scorso 12 febbraio, mentre nelle aule del Parlamento tutti i partiti votavano una ennesima manovra di lacrime e sangue, fuori, nelle strade di tutta la Grecia, si occupavano piazze, edifici, televisioni, comuni, uffici. Si lottava in altri termini per la sopravvivenza. A scendere in piazza non quelli che solo in Italia vengono definiti Black Bloc, ma famiglie intere, con figli a seguito, anziani che magari sono stati partigiani, disoccupati, lavoratori statali, giovani, scendevano per le strade a manifestare la volontà di vivere. La risposta del governo ellenico è stata la più totale indifferenza e repressione. La manovra è passata al Parlamento. Tra i fumi di lacrimogeni che sono stati sparati dalle forze del disordine e gli incendi, il Parlamento greco e non il popolo greco ha accettato di sottostare all'ennesima manovra di tagli di lacrime e di sangue. Nessuno oggi in Grecia parla di manifestanti buoni e cattivi, non ci sono i Black Bloc, come scrive ancora oggi Repubblica e le televisioni di regime, mistificando la realtà. C'è una lotta popolare a cui intendiamo dare pieno sostegno e appoggio, consapevoli del fatto che questa lotta non è solo quella di un popolo, ma quella di un continente. Soprattutto l'Italia deve sentirsi vicina agli ellenici, perché la situazione dei due paesi è molto meno distante di quanto i vari tecnocrati al potere vorrebbero far credere. Basta menzogne, basta divisioni, basta lacrime e sangue. Siamo vicini alla lotta del popolo greco, che è anche la nostra lotta. Lotta per la sopravvivenza. siamo sempre qui a Cosenza in piazza 11 settembre, dove il movimento cosentino si è dato appuntamento per questa per questo sit-in in solidarietà del popolo greco. Recita, come dicevamo, lo striscione Grecia Italia no debito. E continuiamo dunque ad ascoltare i vari interventi che si succedono nella piazza. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Transizione di Fase per questo speciale di Indie Radio. Per testimoniare la nostra solidarietà al popolo greco, un popolo a noi vicino per notevoli ragioni storiche e anche politiche. La cosa che ci unisce alle vicende del popolo greco è l'attualità della crisi. La crisi come vissuta in Grecia, la crisi come vissuta in Italia e nel resto dell'Europa. La crisi gestita dai famosi, in acronimo CDS, le famose 10 società mobiliari che gestiscono le sorti del mondo. Tra esse ci sono i notabili attualmente governanti in Grecia e in Italia, gente che ha fatto parte del board di famose società finanziarie che adesso gestiscono, sono primi ministri in Grecia, sono primi ministri in Italia, sono presidente del Consiglio in Italia, e questi signori adesso gestiscono le sorti di intere popolazioni. Cosa si può fare e cosa dovremmo fare? Questa è la questione, il rompicapo che abbiamo tutti noi davanti e che dovremmo cercare tutti noi insieme di capire i nessi, le relazioni che ci sono tra questo 1% di popolazione che gestisce le sorti del mondo, le ricchezze del mondo. Stiamo parlando della Grecia come paradigma per capire come potrà andare a finire la questione in Italia, come potrà andare a finire la storia nostra, quella spagnola, quella portoghese, quella irlandese. Sono popolazioni europee, guardate che in Europa, al di là della Germania e dell'innominabile Lussemburgo e dell'Olanda, per il resto sono tutte nazioni che stanno più o meno con lo stesso debito pubblico. Ma la questione, come ben sapete, come avete potuto ben capire, non è una questione di debito pubblico. Quindi bisogna capire essenzialmente come se ne esce da quest'incubo, da questo mantra di austerity. È da 2 anni che la popolazione greca sta subendo questa politica di austerity. Cosa ha comportato? Dove si è arrivati dopo 2 anni incessanti di politica d'austerity in Grecia? Siamo vicino al default, la Grecia è in default, la Grecia è fallita. È la stessa politica d'austerity che la Germania sta predicando in lungo e largo, ha fatto accettare a tutti i paesi europei. Questa è la politica di austerity, è un mantra che i nostri governanti continuano a ripeterci in continuazione. Bisogna fare dei sacrifici, bisogna assolutamente sacrificarsi per il bene del paese. Ce le dicono un po' tutti questa storiella, ma di fatti non si riescono ad intravedere le vie di uscita di tutto questo. Bisogna seriamente cominciare a capire a cosa serve effettivamente fare tutti questi sacrifici e se non sono migliori le alternative che magari fanno un po' rabbrividire molti di noi, che sono le alternative di dire no a questa questione. Dire no come lo stanno dicendo in Grecia gran parte delle popolazioni che li vede sfilare di giorno e di notte in continuazione tra i grandi centri cittadini. Bisogna capire che quello che sta succedendo in Grecia è molto simile alle cose che stanno succedendo da noi in Italia, ed è molto simile alle cose che stanno succedendo in Spagna e in Portogallo. Questi sono i paesi che appena subito dopo la questione della Grecia avranno gli stessi problemi e la stessa evoluzione di questi problemi. Quindi bisognerebbe cominciare ad affrontare la questione della crisi cercando di dire la verità su come da questa crisi se ne esce. Non è possibile continuare ad ignorarla facendo finta che tutto quello che sta succedendo non rientra nelle nostre possibilità, nella nostra capacità, nella nostra potenza di venirne fuori. Questa è la questione che tutti noi abbiamo davanti e tutti noi dobbiamo cercare di risolvere nel miglior dei modi. Cosa ci insegna la Grecia? La Grecia ci insegna che c'è una resistenza popolare molto diffusa. La Grecia è arrivata a 5-6 scioperi generali e i risultati che si sono avuti sono stati 150.000 licenziamenti e un rapporto tra debito pubblico e PIL mai visto prima, forse 7-8 volte con l'italiano, per cui è facile capire che la Grecia ha delle enormi difficoltà a venirne fuori, ad uscire fuori da una situazione di default. Qual è l'interesse delle nazioni europee per fare sì che la Grecia esca da quella situazione? È paradossale che la Germania e la Francia, che hanno stabilito e attuato le politiche creditizie all'interno delle vicende greche, adesso stanno in stand-by, non riescono a decidere, non riescono ad essere attivi in una situazione di questo tipo. Per cui immaginiamo, crediamo, che sia opportuno avere un'idea diversa di Europa, una idea diversa di Europa che abbia per principio un'Europa politicamente unita, un'Europa che punti su una politica fiscale che dia l'idea diversa, esattamente diversa dall'Europa monetarista, neoliberista che abbiamo oggi davanti. La Merkel insieme a Sarkozy hanno deciso di recente stabilito che le politiche che bisogna adottare nell'Europa dei 27 sono politiche d'austerity, quindi tutto quello che stiamo vedendo adesso sono il prossimo futuro, non c'è via d'uscita, è un incubo. Dobbiamo cercare di capire che questa spirale non ha, come potete immaginare, fine, non ha fine se non la si rompe, se non la si apre, se non si dà una prospettiva. Noi abbiamo bisogno di focalizzare bene le cose che abbiamo davanti, abbiamo bisogno di capire esattamente l'origine della crisi, le responsabilità della crisi, che sono esattamente le stesse di quei signori che oggi ci danno le indicazioni di come uscirne. Tutto questo non è assolutamente possibile. Si parla di 130 milioni di euro che adesso arriveranno al popolo greco. Non è esattamente così. Al popolo greco arriveranno, alle banche greche, arriveranno i soldi che si dice formalmente che dovrebbero arrivare al popolo greco. Non è esattamente così. I soldi andranno alle banche che contano in Grecia. Andranno a tutelare gli interessi della Germania e della Francia all'interno dei greci e andranno a difendere i particolari interessi dei ricchi greci che da tempo stanno esercitando un potere da vampiri rispetto alla popolazione greca. E questa è la situazione che abbiamo davanti, ed è esattamente una situazione che non permette via d'uscita, se non con un punto di vista totalmente alternativo che intravede la possibilità di via d'uscita rompendo questo meccanismo, riuscendo ad intravedere una possibilità di rottura di questo meccanismo imposto da Merkel e Sarkozy. Non è quella la sola e semplice maniera di vedere l'Europa che noi avevamo in testa e che noi pensavamo di avere ritrovato nell'Europa unita, una cosa diversa da quello che succedeva nei nostri recinti di Stato nazionale. Nell'Europa unita noi immaginavamo delle nuove istituzioni, nell'Europa unita noi immaginavamo la possibilità di intravedere delle nuove forme di democrazia e delle nuove forme di libertà. Invece adesso ritroviamo solo ed esclusivamente delle nuove forme di austerity, nient'altro che politica che punta esattamente al controllo delle nostre vite, punta esattamente al controllo delle nostre capacità produttive, pensa esclusivamente a distruggere quella che è la nostra cooperazione sociale, pensa semplicemente a distruggere quelle che sono le forme nuove di ricchezza, tutte incentrate sulla cooperazione sociale. E questa è la questione centrale, e questa è la questione che abbiamo davanti e che dobbiamo semplicemente cercare di costruirci sopra dei rapporti di forza tali da poter permetterci di invertire la tendenza. E questa questione non è, come potete ben capire, di poco conto. Riteniamo che questa cosa possa sicuramente essere invertita, perché non è una cosa divina, non è una cosa che è stata imposta dal Padre Eterno, è una cosa costruita dagli uomini, è una cosa determinata dagli uomini e come tale può essere sconfitta. Grazie. Per Radio Transizione di Fase, Indy Radio ha seguito per voi questo sit-in che si è svolto a Cosenza in piazza 11 settembre in solidarietà del popolo greco, soprattutto a seguito degli avvenimenti del 12 gennaio e del 12 febbraio scorso, quando il popolo greco, ve lo ricordiamo, è sceso in massa in tutte le piazze delle principali città del paese per protestare contro una ennesima manovra di lacrime e sangue. Qui da Cosenza è dunque tutto, si stanno smontando le tende, c'è un'ultima canzone che va dalle casse del presidio, i tecnici stanno smontando un po' di cose, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento a un nuovo speciale di Indy Radio che speriamo possa avvenire a breve. Intanto vi ricordiamo sempre che Indy Radio è il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indy Media e che potete ascoltare sempre su Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 20, in replica sabato alle 20:30. Buon ascolto su Radio Transizione di Fase, web radio indipendente. Della foresta di cemento salgono le urla sconnesse dei riti degli ultimi passi mutanti, due occhi di rana continuano a fissarmi ironici, dietro di loro l'infinito. anni.